pagliaccio non son, se il viso è pallido e di vergogna e smania di vendetta. L'uor mi prende tra i dritti e il cor che sanguina vuol sangue a lavar l'orta. Oh!